Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Quando tese la mano a cercare l'asciugamano nell'armadio della biancheria, scorse, sul ripiano superiore, un pacchettino quadrato avvolto in un foglio di carta da farmacia. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Revolutionary Road di Sam Mendes. È la storia di April e Frank Wheeler, una coppia di coniugi che vive con i due figli in una bella casa a Revolutionary Road. Dietro la loro apparente felicità si nasconde un'insoddisfazione profonda che diventa presto incontenibile. Audiogrammi in radio come al cinema. Era il 1955. Il luogo, una zona del Connecticut. La compagnia dell'alloro era una filodrammatica, ma una filodrammatica costosa e dagli intenti quanto mai seri. Era l'ora di far decollare sul serio questo spettacolo, farlo diventare una cosa seria. Quella sera, a 24 ore dall'entrata in scena, chissà come erano riusciti a farcela. Inebriati dal contatto insolito di ceroni e costumi, in quella prima serata tiepida dell'anno, avevano dimenticato le loro paure, avevano lasciato che il ritmo del dramma venisse a prenderli e a trascinarli per poi infrangersi come un'onda. Poteva anche apparire sentimentale, ma avevano davvero messo il cuore in quel lavoro. Si poteva forse pretendere di più? Si alzò il sipario. Gli occhi del pubblico erano ora tutti puntati sulla ragazza che impersonava la protagonista, Gabrielle. Si chiamava April Wheeler e la sua apparizione bastò perché la parola carina volasse in un sussurro da un capo all'altro della platea. Un altro po' e vi furono gomitatine speranzose e sussurri di «È proprio brava!». Non aveva importanza il fatto che due gravidanze le avessero lasciato cosce e fianchi un tantino troppo pesanti, perché si muoveva con la grazia pudica e sensuale di una fanciulla. Chiunque avesse dato un'occhiata a Frank Wheeler, il giovanotto dal volto tondo e dall'aria intelligente che sedeva mordicchiandosi le nocche nell'ultima fila, l'avrebbe preso più per lo spasimante che per il marito di April. La protagonista stava facendo tutto da sola, perdendo visibilmente slancio a ogni battuta e ancor prima della fine dell'atto gli spettatori capirono, al pari degli attori, che April Wheeler aveva perso mordente e ben presto si sentirono tutti imbarazzati per lei. Durante l'intervallo gli spettatori uscirono a fumare una sigaretta e passeggiare in gruppetti imbarazzati lungo il corridoio. Oh, Frank! Oh, molto bello, Frank! Oh, grazie mille, signora Giddings. Non le so dire quanto ci è piaciuto. Lei ha una moglie di grande talento. Bene, glielo riferirò. Nessuno di loro aveva voglia di tornare in sala e sopportare anche il secondo e ultimo atto. Eppure tutti lo fecero. E quando il sipario calò, parve un atto di misericordia. April? Tesoro? Sei già pronto per andare? Sì, sì. Devo solo togliermi questo trucco dalla faccia. Direi che non è stato un trionfo giù di lì, eh? Direi di no. Franklin Wheeler era un ragazzo ordinato e solido, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 30 anni. Un uomo gentile, dotato di umorismo, il quale avrebbe trovato proprio le parole che ci volevano per confortare dietro le quinte la moglie. Ma negli intervalli tra un sorriso e l'altro, mentre a colpi di spalle si incuneava tra la folla e nei suoi occhi si scorgeva una lieve cronica febbre di perplessità, si sarebbe detto che anche lui avesse bisogno di conforto. Aveva sperato che in macchina April gli si sedette molto vicino, voleva tenerle il braccio attorno alle spalle guidando. Ma lei si fece piccina, rannicchiandosi contro la portiera e voltandosi a osservare le luci e le ombre che si susseguivano lungo la strada. Sul serio, piccola, eri l'unico personaggio vivo. Non dovevamo farti trascinare in questa maledetta cosa, ecco tutto. Benissimo. Una banda fatta di dilettanti. Insomma, tu hai studiato, per amor del cielo. Potremmo piantarla di parlarne ora. Certo. Io semplicemente non voglio che ci resti male, ecco tutto. Perché non ne vale la pena, sai? È già abbastanza difficile vivere nei sobborghi tra questa gente, Bill. Che cosa hai detto? Ho detto sì. Va bene, Frank. Potresti solo smettere di parlarne ora, prima di farmi impazzire, per favore. Con sicura e fluida eleganza portò la macchina fuori dalla strada di campagna tutta buche, imboccando la superficie liscia e dura della statale 12. Le persone intelligenti e sensate dovevano fare buon viso a cattivo gioco di fronte a situazioni del genere. Avril, tesoro, parliamone invece, d'accordo? No, Frank, ti prego, non fare così. Avanti, dai. Non toccarmi. Avril. Vuoi lasciarmi in pace? Frank si affrettò a frenare, fermando la macchina sulla sabbia della banchina al lato della strada, spegnendo motore e fari. Poi scivolò sul sedile, tentando di abbracciare April. Ho come l'impressione che ci sia una considerevole dose di puttanate in tutto questo. Ci sono un paio di cosette che vorrei mettere sul tavolo, d'accordo? Numero uno, non è colpa mia se la rappresentazione era nauseante, d'accordo? Numero due, è stracerto che non è colpa mia se non sei diventata un'attrice. E prima ti fai passare questo pezzo da soap opera, meglio sarà per tutti e due. Numero tre, guarda che non sono tagliato per il ruolo di stupido, insensibile marito suburbano. Cerchi di affibbiarmi questa fesseria da quando ci siamo trasferiti qua giù. E col cavolo che me la collo. Numero quattro, April! Per un secondo, mentre smontava anche lui dall'automobile e partiva al suo inseguimento, Frank pensò che volesse ammazzarsi. Era capace di questo e altro in momenti del genere. Che diavolo stai facendo? Torna in macchina! No, ci torno tra un minuto. Lasciami da sola per un secondo. Maledizione. April, puoi per cortesia tornare in macchina a parlare di questo invece di scorrazzare per la statale 12? Non sono stata chiara, non ho una particolare voglia di parlarne. Va bene. Proprio di fronte a loro, a 200 o 300 metri di distanza, il terreno si rialzava al di sopra dei fili del telegrafo illuminati dalla luna, a formare la collinetta di Revolutionary Hill. Insomma, Cristo, cerco di essere carino in questa situazione, per amor del cielo. Come sei gentile! Straordinariamente gentile! Aspetta un momento, io non mi merito Sei questo. Sempre meravigliosamente preciso riguardo a quello che ti meriti o non ti meriti! Aspetta un momento! Ho detto, aspetta un... April, ascoltami bene! E poi persero il controllo. Le loro braccia e gambe erano tutte un tremito, i loro volti erano deformati dall'odio e il calore della lite li spinse sempre più insistentemente a toccare i rispettivi punti deboli, svelandogli astute vie traverse per aggirare le reciproche posizioni, rapide occasioni per cambiare tattica, fintare e ripartire all'assalto. Nel tempo necessario per tirare il fiato, la loro memoria corse indietro negli anni alla ricerca di vecchie armi con cui riaprire vecchie ferite. E così per un pezzo. Questa è la volta che non te la cavi distorcendo tutto quello che dico, April. Guarda caso, questa è la maledetta volta in cui so di non essere nel torto. Signore, potevi startene a casa. Sai stasera. Cosa sei quando fai così, April? Sei malata, dico sul serio, sei malata. E lo sai tu cosa sei? Sei disgustosa. Ah, sì. Non mi infinocchi, Frank. Solo perché mi hai messa al sicuro in questa trappola, credi di potermi obbligare a provare tutto quello che tu vuoi che io provi? In trappola, sì, tu, sì. In trappola. Io, senti, Frank, io. Non farmi ridere. Sei un ragazzino patetico, pieno di illusioni. Ma guardati e dimmi come con qualunque sforzo di immaginazione tu possa definirti un uomo. Frank fece partire un pugno tremante per colpirla alla testa con un manrovescio e lei si rannicchiò contro il parafango in uno sgraziato groviglio di paura. Poi, invece di colpirla, Frank ballonzolò via con una mediocre imitazione del lavoro di gambe di un pugile e lasciò cadere il pugno, con quanta forza aveva, sul tetto della macchina. Non guardarmi così, April. Ora, per piacere, potremmo tornare a casa. Lunedì mattina Frank mise piede nel Knox Building con l'aria di un automa, puntando dritto al primo ascensore disponibile. 15° piano. Premuto contro la lucida parete della cabina, udì la porta scorrevole serrarsi con uno scatto seguito dal cigolio del cancello di sicurezza, e non appena la cabina si mise in moto, fu sommerso dalle conversazioni dissonanti dei colleghi. Maureen Grube era addetta ad accogliere i visitatori, ma dipendeva dalla sezione dattilografia. Frank aveva sempre avuto l'impulso di abbracciarla e condurla da qualche parte dove potersi sedere e prendersela sulle ginocchia. Non era la prima volta che quell'idea gli fluttuava per la testa, con la differenza che ora, non appena gli balenò, Frank si disse: «E perché no?» Lei se ne stava alla sua scrivania nella sezione riservata ai visitatori, senza nulla da fare, e quando levò lo sguardo, Frank lesse nei suoi occhi tanta compiaciuta aspettativa, o forse era complicità. Poi all'improvviso Maureen apparve venendo verso di lui con indosso una giacca primaverile. Frank si tenne un po' discosto da Maureen e restò in una rigida posizione di riposo militaresco mentre scendevano sospesi nell'aria. Spero non avesse in programma di andare a pranzo presto. No, non ho molta fame. Bene, io ripasso più tardi, d'accordo? D'accordo. Bene. Tutti i ristoranti dei dintorni dovevano rigurgitare di impiegati della Knox. Non gli restava che andarsene dalle immediate vicinanze, e mentre attraversavano l'atrio le sfiorò il gomito, esitante, quasi le avesse toccato il seno. L'unico problema adesso era dove andare. Si stavano dirigendo più o meno verso il verde di Washington Square quando Maureen si fermò sul marciapiede e disse che lei abitava lì. Un istante dopo Frank ne stava seguendo le anche su per una buia in rampa di scale, coperta da un tappeto, e poi una porta si chiuse alle sue spalle ed egli si trovò in una stanza che sapeva di aspirapolvere, pancetta fritta e profumo. Con un lieve gesto Maureen si girò e gli si gettò tra le braccia, offrendogli la bocca. Poi furono sul divano e l'unico problema al mondo era quello di liberarsi dei vestiti. Frank prese la macchina verso casa, poi, superata la curva, vide April uscire correndo dalla porta della cucina per andargli incontro al garage. Indossava l'abito da cocktail nero, ai piedi aveva le ballerine, attorno alla vita un grembiolino di candida organza arricciata che non le aveva mai visto prima. Gli lasciò appena il tempo di spegnere il motore, spalancò la portiera e gli afferrò il braccio con ambo le mani, parlando. Le mani di April erano più sottili e più nervose di quelle di Maureen Grube. April era più alta e più anziana, usava un profumo completamente diverso e parlava più rapidamente, con un tono di voce più acuto. Frank... Perché ti sei messa così elegante? Per prima cosa, è tutto il giorno che mi manchi e voglio chiederti scusa. Scusa i miei modi dal giorno della commedia. Scusami per tutto. E io ti amo. Il resto può attendere. Se Frank avesse avuto un anno intero a disposizione con nient'altro cui pensare, non sarebbe riuscito, per quanti sforzi facesse, a districare e soppesare le emozioni che lo colmarono nei 2 o 3 secondi trasognati quanto durò il tragitto fino alla porta della cucina. Ora, tu aspetti qui finché non ti chiamo, va bene? Va bene. La sua famiglia era tutta a tavola. Avanti, Frank, adesso puoi entrare. E Frank fece scorrere lo sguardo dall'uno all'altro volto prima di capire che cos'era che li immergeva in una tremolante luce gialla. Era una torta con le cannelline. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri paparino, tanti auguri a te. Buon compleanno, tesoro. Ti voglio bene, papà. Anch'io ti voglio bene. Erano soli, in piedi sul tappeto del soggiorno, e lei mosse un passo esitante verso di lui. Frank, ho avuto un'idea meravigliosa. È tutto il giorno che ci penso. Sai quanti soldi abbiamo da parte? Sufficienti per vivere 6 mesi senza che tu guadagni un centesimo. E con quello che ricaviamo dalla casa e dalla macchina, molto più di 6 mesi. Quello che ricaviamo dalla casa? Tesoro, ma di che stai parlando? Dove andremo a vivere? A Parigi. Come? Hai sempre detto che era il solo posto in cui sei stato dove volevi tornare. Il solo in cui valeva la pena di vivere. Perciò, perché non ci andiamo? Dici sul serio? Sì. Cos'è che ce lo impedisce? Cos'è che ce lo impedisce? Beh, penso a parecchie cose diverse. Per esempio, che genere di lavoro potrei mai trovare? Tu non dovrai trovarti nessun tipo di lavoro, perché ci penserò io. Oh. Si sentiva un mostro ripensando a quello che era successo poche ore prima con Maureen. Ora concedeva a sua moglie di chiedergli perdono e in pari tempo, con lo sguardo freddo e spassionato, stava scoprendo che non era poi un granché da vedere. Troppo vecchia ora, troppo alta e troppo tesa. Ascolta un momento. Lo sai quanto pagano per un lavoro di segretaria negli organismi governativi in Europa? No, non lo so. Ascolta, Frank, sto parlando seriamente. Ti pare che stia scherzando va per bene, caso? Va bene, ho solo un paio di domande, ecco tutto. Prima cosa, esattamente io che cosa dovrei fare mentre tu guadagni tutti quei soldi? Non capisci. Questa è appunto l'idea. Farai quello che doveva esserti concesso di fare 7 anni fa. Avrai del tempo. Per la prima volta nella tua vita avrai il tempo di scoprire che cos'è che vuoi fare veramente. E quando l'avrai scoperto, avrai il tempo e la libertà di cominciare a farlo. Tesoro, non è molto realistico tutto questo. Frank aveva voglia di precipitarsi fuori di casa a compiere qualche drammatico atto di espiazione, pestare il pugno su un albero o farsi qualche chilometro di corsa saltando muretti fino a cadere esausto tra il fango e le erbacce di una palude. No, Frank. È questo che non è realistico. Non è realistico per un uomo dalla mente sveglia continuare ad applicarsi anno dopo anno a un lavoro che non sopporta. Tornare a casa in un posto che non sopporta, da una moglie come lui incapace di sopportare le stesse cose. E vuoi sapere la parte peggiore? La nostra intera esistenza qui è basata sulla grande premessa che noi siamo speciali e superiori a tutto il resto. Ma non lo siamo. Abbiamo accettato la stessa ridicola illusione. L'idea che uno deve ritirarsi dalla vita e sistemarsi nel momento in cui ha dei figli. E ci stiamo punendo a vicenda per questo. Ascolta, noi abbiamo deciso di trasferirci qui. Nessuno mi ha costretto a prendere il lavoro alla Knox. E poi chi ha mai detto che ero destinato a diventare un pezzo importante? Quando ti ho conosciuto, non c'era niente al mondo che tu non potessi fare o essere. Quando mi hai conosciuto io ero un furbastro con la lingua lunga, ecco tutto. No, non è vero. Come fai a dire questo? C'era qualcosa che non fosse in grado di fare. C'era un viaggio che non potesse intraprendere e conquista che non potesse prometterle. E va bene, avrò del tempo. E tutto quello che dici avrebbe senso se avessi un preciso talento, se fossi uno scrittore Frank, o un artista. Frank, ascolta, ascoltami bene. È quello che sei che viene soffocato. È quello che sei che viene negato e negato in questo genere di vita. Sarebbe a dire... Non lo sai tu. Sei la cosa più bella e preziosa che c'è al mondo. Sei un uomo. Forse c'era voluta una settimana, due o più, prima che la sua vita ritrovasse l'equilibrio, con le familiari preoccupazioni per il trascorrere del tempo e l'ansioso bisogno di misurarlo e suddividerlo. Un periodo strano anche per i bambini. Che cosa significava esattamente trasferirsi in Francia in autunno? E perché la mamma continuava a battere e ribattere che sarebbe stato divertente, come per sfidarli a dubitarne? Non indovinerete mai cosa mangiano a Parigi. Non indovinerete mai. Cosa? Cosa? Viscide lumache. Lumache? Viscide lumache, schifose zampe di rana. Una consolazione c'era. Potevano andarsene a nanna senza la paura di essere svegliati di soprassalto, di lì a un'ora, dai rumori improvvisi di un litigio. Colpi, scrosci, respiri affannosi, porte sbattute. Tutte cose che, a quanto sembrava, erano solo un ricordo del passato. Quella sera Frank e April andarono a cena dai vicini Campbell. Qualche bella notiziola? Frank, schiarendosi la gola, disse... Beh, in effetti, Millie, noi abbiamo una notizia importante da darvi, sì. Lo sapevo. Tesoro, diglielo tu. Andremo in Europa, a Parigi. Oh! A viverci. Cosa? Quando? A settembre. I Campbell, marito e moglie, diedero vita a un fuoco di fila implacabile di domande e i Wheeler lasciarono cadere, cortesi, sorridenti risposte. Ma a che scopo? A che scopo? Beh, perché... Abbiamo sempre voluto farlo, perché i bambini sono abbastanza piccoli, perché è bellissima. Insomma, davvero, Shep, ci sei stato, diglielo tu. Sì, è una città fantastica. Sì. Il signor Campbell puntava lo sguardo al vestito blu di April, e non solo. Spesso i loro occhi si incrociavano, ma senza nessuna malizia. Più tardi, a fine serata, quando i Wheeler se ne furono andati e la casa tornò silenziosa, Il signor Campbell, sia pure con precauzione, lasciò che dentro gli affiorasse un pochino di dolore nel sapere che i Wheeler, in particolare April, avevano questo progetto in mente. Questo posto le va bene? Ah, va benissimo, signore, va benissimo. Bart Pollock era il direttore generale alle vendite della sezione elettronica. Un uomo dal quale Frank non aveva mai ricevuto altro che un occasionale vago cenno del capo in ascensore e che lui disprezzava a distanza di anni. Una cosa mi interessa, Frank, una cosa sola. Vendere il calcolatore elettronico all'uomo d'affari americano. Per questo sto mettendo insieme una squadra. Uomini come lei, non il venditore medio. Significherà più denaro e, devo essere sincero, forse maggior impiego di tempo. Ma lei farebbe parte di una cosa eccitante, Wheeler. I computer. Frank beve un sorso di acqua ghiacciata e si guardò intorno. Ascolti, Bart, c'è una cosa che avrei dovuto accennarle prima. Intendo lasciare l'azienda in autunno. Per un altro gruppo? No, non è un altro gruppo. Beh, senta, Frank, è una questione di soldi. Perché se è così non c'è motivo per cui non possiamo raggiungere... Vede, di certo l'apprezzo molto, ma no, non si tratta di soldi, Frank si sentiva il petto stretto in una morsa e faticava a respirare. Beh, è più una cosa personale. Spero che comprenda. E con ciò tutto parve sistemato. Pollock prese ad annuire lentamente, con aria decisa, per dimostrare la sua infinita comprensione delle faccende personali. I cenni d'assenso di Pollock continuarono ancora per un po'. Poi disse... Frank, voglio dirle una cosa che mio padre disse a me. Un uomo tiene solo un paio di occasioni nella vita. E se non le afferra per le palle, dopo un poco si ritrova a chiedersi com'è che è diventato una seconda scelta. Perciò mi faccia un favore. Ci dorma su. Ne discuta con sua moglie. Quella sera Frank non aveva potuto dire nulla ad April all'ora in cui era rientrato. April era troppo stanca per aver voglia di parlare. E fu la sera successiva, o forse quella dopo ancora, che Frank la trovò intenta a misurare a grandi passi la cucina. Nello stesso modo impettito e nervoso con cui aveva percorso il palcoscenico nel secondo atto della Foresta Pietrificata. Coraggio, April, che c'è che non va? Niente. Non ti credo. È successo qualcosa stamattina? Oggi non è successo niente che non sapessi già da giorni e giorni. Che cosa? Oddio, Frank, ti prego, non quell'aria da ebete. Vuoi dire che non te lo immagini? April, ma di che stai parlando? Sono incinta, ecco tutto. Cosa? Frank, volevo aspettare che i bambini fossero a letto per dirtelo, ma è che io... Ne ero quasi certa da una settimana e oggi sono andata dal dottore e ora non posso nemmeno far finta che non sia vero. La faccia di Frank docilmente impallidì e spalancò la bocca con l'espressione di chi sia sconvolto da una brutta notizia. Ma sapeva che non sarebbe riuscito a mantenerla a lungo. Un sorriso esultante già gli premeva in petto in cerca di libertà. Dovette portarsi una mano alle labbra per frenarlo. Da quanto? 10 settimane. 10 settimane? 10 settimane e aspetti fino a ora per dirmelo? No, beh, pensavo... Non so che cosa pensavo. Mi dispiace, Frank, mi dispiace tanto. Lo so che ti dispiace, va bene. 12 settimane, abbiamo tempo per decidere, giusto? Giusto. Ti amo. Ti amo anch'io. La tensione era svanita. La vita aveva misericordiosamente ripreso il corso normale. Frank si stava lavando le mani, aspirando il buon profumo del sapone e i sentori aromatici della polvere detergente di April. Quando tese la mano a cercare l'asciugamano nell'armadio della biancheria, scorse sul piano superiore un pacchettino quadrato avvolto in un foglio di carta da farmacia. Nel pacchetto c'era una scatola di cartone azzurro che recava il timbro d'approvazione governativa e nella scatola il bulbo color rosa scuro di una siringa di gomma. Senza concedersi il tempo di riflettere, senza neppure chiedersi se non fosse stato meglio aspettare dopo cena, attraversò il soggiorno col pacchetto in mano, sorpassò in fretta i bambini che ancora guardavano i cartoni animati ed entrò in cucina. E il modo in cui la faccia stupita di April prese a indurirsi quando guardò il pacchetto e poi lo fissò negli occhi non lasciò dubbi sulle sue intenzioni. Che diavolo pensi di fare con questa? April indietreggiava, avvolta dal vapore delle verdure, in un gesto non di ritirata, bensì di tensione e di sfida, facendosi scivolare nervosamente le mani su e giù per i fianchi. E cosa pensi tu di fare? Vuoi impedirmelo? Sei preso in pieno, credimi. Coraggio, provaci. Ascoltami, tu fallo, April. Tu fallo, io giuro su Dio. Che cosa? Che mi lasci? È una minaccia o una promessa? Quanto l'hai comprato, April? Da quanto ce l'hai? Voglio saperlo. Oh, signore, stai facendo veramente un melodramma di tutta questa storia. Purché lo si faccia entro le prime 12 settimane, il pericolo non c'è. Sarebbe adesso, April, e a me non lo chiedi. Ma sì, sicuro. Sarebbe per te, Frank, non capisci? Così puoi avere tempo, ne avevamo già parlato. Come può essere per me quando al solo pensiero lo stomaco mi si rivolta, per amor del cielo? Allora è per me. Dimmi che possiamo avere il bambino a Parigi, Frank. Dimmi che possiamo avere una vita diversa, ma non farmi restare qui, ti prego. C'era una quantità di tempo per arrivare alla giusta decisione in merito per risolvere il problema. Le loro innumerevoli centinaia di migliaia di parole furono pronunciate all'aperto e al chiuso, durante lunghe corse in automobile sulle colline di notte, in costosi ristoranti di campagna e a New York. L'idea che si proponeva di vendere, dopo tutto, era assolutamente impeccabile. Era generosa, meditata e, benché cercasse di evitare falsi moralismi, inattaccabile dal punto di vista morale. L'idea contraria, invece, per quanto April tentasse di avvolgerne l'audacia in un alone di romanticismo, era ripugnante. Ben presto April incominciò ad avere una lieve, imbarazzata esitazione nella voce e a distogliere percettibilmente lo sguardo ogni qualvolta alludeva all'aborto, dicendo fare questa cosa persino nel contesto di una sincera perorazione sull'assoluta necessità di farlo, come se la presenza del volto affettuoso, turbato di Frank avesse posto l'argomento oltre i limiti della decenza discorsiva. Mancavano ancora 11 giorni al momento fatale e in ciascuno di essi April poteva cambiare parere all'improvviso. Sarebbe stato meglio, decise, non indugiare oltre nel far sapere a tutti che avevano mutato programma. Ed era anche necessario avere a che fare con i Campbell. Un intero sabato era stato sprecato in questo modo, con tanto di picnic e gita al mare su insistenza dei Campbell, ed era stata una giornata di panini e di piante infantili, di sabbia, sudore e confusione accecante. Allora, Frank, come va il lavoro? Sopravviveranno senza di te? Veramente, giorni fa è accaduta una cosa divertente. Ah, sì? Ho fatto uno stupido lavoretto per non sentirmi più bendi nelle orecchie e a un tratto sono il giovanotto brillante. Vogliono che mi unisca alla squadra dei venditori specialisti. Cretini. Beh, sarebbe da ridere se non offrissero tutta quella montagna di soldi. Tu sei tentato? Ecco, è alquanto ironico, non trovi? Credevo che tu avessi rifiutato il lavoro. Beh, non ancora. È solo una possibilità, ecco tutto. Ogni venerdì e sabato sera, per la gioia degli appassionati del ballo, il quartetto di Steve Kovich suonava la Capannina da Vito, sulla statale 12. Non di rado il pubblico delle serate danzanti comprendeva anche i Campbell e i Wheeler. E ora eccoli lì, quattro persone tranquille che ordinavano da bere giro dopo giro, si alzavano e si accoppiavano per ballare, tornavano al tavolo e si risiedevano in silenzio nel fragore delle esibizioni musicali. Ma nonostante procedesse un po' impacciata, la serata era singolarmente priva di tensione, o così almeno pareva a Frank. Sua moglie era infelice? Peccato. Ma dopo tutto erano affari suoi. Anche lui aveva i suoi problemi. Questo modo di pensare deciso, privo di qualsiasi senso di colpa o di imbarazzo, era nuovo e comodo. Nel frattempo, per tutto il lento che seguì e per l'altro ancora, il signor Shep Campbell ballò gentilmente con April. In tutte le sue colpevoli fantasie non avrebbe mai saputo escogitare un modo migliore di restare da solo con lei. E l'aspetto più strano della faccenda era che non aveva neppure dovuto darsi da fare per combinare l'incontro. Nel momento in cui giunse a questa conclusione, erano di nuovo sul margine della pista da ballo. Lei si era girata verso di lui con aria seria, gli occhi fissi al suo bavero destro, e l'unica cosa che restava da fare era passarle con leggerezza un braccio attorno alla vita e riprendere a ballare. Facciamolo. shuffle, shuffle, shuffle, shuffle, shuffle, shuffle. Listen to the rhythm of the beat. Cominciò nel parcheggio, nel buio. Shep si fermò e la costrinse a voltarsi verso di lui, tra le sue braccia, e poi le labbra schiacciate su di lei si schiusero sotto la sua bocca e le mani di lei gli salirono lungo il dorso e attorno al collo mentre la premeva contro il parafango di un'automobile. Si separarono e tornarono a stringersi sotto il frusciare degli alberi neri. Ti porto da qualche parte. No, falla, falla qui. Ora. Il rumore dei loro respiri li aveva resi sordi a ogni altro suono. E fu sul sedile posteriore che accadde, raggomitolato e alla disperata ricerca di appigli nel buio. Shep Campbell finalmente trovò e ottenne la soddisfazione del suo amore. April, è quello che ho sempre voluto. Ti amo. Ti prego, sta zitto per un momento. Poi puoi portarmi a casa. Passò ancora qualche giorno e i turbamenti di April e Frank aumentarono. Lui si versò 3 dita di bourbon. La sorsata bruciante di whisky gli provocò un colpo di tosse accompagnato da un tremito convulso. Lei scoppiò a ridere, gettò indietro la testa, le 2 perfette file di denti si schiusero e i suoi occhi brillarono socchiusi mentre gli scrosci delle sue risate echeggiavano nella stanza. April! April! Era in preda a un attacco isterico. Mentre la osservava barcollare e incespicare per il soggiorno, appoggiandosi ora a questo, ora a quel mobile, e quindi alla parete per poi staccarsene ridendo irrefrenabilmente, Frank si chiese cosa fare. Infine April crollò in una poltrona, continuando a ridere, e Frank attese quello che immaginava sarebbe stato un passaggio dal riso al pianto. Ma April si calmò in maniera stranamente normale, come se più che da una crisi isterica si fosse ripresa da un accesso di risa dovuto a una battuta divertente. Oh, Frank, sei davvero un oratore meraviglioso. Se il nero potesse diventare bianco a parole, tu saresti il più adatto a farlo. Così ora sono pazza perché non ti amo, giusto? È questo il punto? No, sbagliato! Tu non sei pazza e tu mi ami. Questo è il punto, April. April si levò in piedi e indietreggiò, scostandosi da lui, gli occhi accesi. Ma io non ti amo. Io ti detesto. Tu sei solo un ragazzo che mi ha fatto ridere una volta a una festa e adesso la tua vista mi repelle. Una perfetta battuta conclusiva. Frank imboccò il corridoio che sembrava ondeggiare e inclinarsi. Si infilò in camera da letto, chiudendosi la porta alle spalle con un calcio. Si sedette di schianto sul letto, battendosi il pugno destro sul palmo della sinistra. Poi a poco il respiro si calmò. Il sangue riprese a scorrergli col ritmo più lento e gli occhi cominciarono a scorgere qualcuno degli oggetti che lo circondavano. Si affacciò dalla finestra e la vide in piedi in cima al giardino. Pareva che April non facesse nulla lassù. Continuava a starsene appoggiata all'albero e quando calò il crepuscolo cominciò a farsi difficile individuarla. Poi April entrò in soggiorno e accese le luci e l'improvviso bagliore li costrinse entrambi ad ammiccare e strizzare gli occhi. Quel che Frank provava era soprattutto imbarazzo. Anche April apparve imbarazzata finché non attraversò la stanza e non andò a distendersi sul divano nascondendo il volto. Quella che seguì fu una notte di vividi, orribili sogni. La mattina dopo, la tavola della prima colazione era accuratamente apparecchiata per 2. Buongiorno. Buongiorno. Le uova le vuoi strapazzate o fritte? Non lo so. Non ha molta importanza. Strapazzate forse, se è più facile. Benissimo. Le prendo strapazzate anch'io. April non aveva toccato le uova e Frank si accorse che le tremavano un po' le dita quando tese la mano per sollevare la tazza del caffè, quanto al resto appariva del tutto padrona di sé. Ho pensato che oggi ti occorreva una buona colazione. Insomma, oggi è un giorno importante per te, no? Non è oggi che hai la riunione con Pollock? Sì, esatto. Frank provava una strana sensazione che i polmoni gli si facessero più profondi o che l'aria gli si arricchisse di ossigeno. Le sue spalle, che fino a quel momento aveva tenuto dritte e irrigidite, un po' alla volta si appoggiarono comodamente sullo schienale della sedia. Anche gli altri uomini provavano la stessa sensazione quando parlavano di lavoro con la moglie. Forse è meglio che io mi avvii. Ascolta, però, April, è stato molto bello. Voglio dire, è stata una colazione magnifica, davvero. Io non ricordo di aver mai fatto una colazione più bella. Grazie, anche a me è piaciuta. Dunque non mi odi o cose così? No, no, certo che non ti odio. Buona giornata. Gli occhi di April erano seri e profondi. Sembrò lieta che lui le avesse fatto quella domanda, come se fosse una delle poche alle quali fosse in grado di rispondere con sicurezza. Sorrideva ancora mentre osservava la tavola apparecchiata, e neppure allora il sorriso si spense. Semplicemente si allargò e tremò, e si fissò in una rigida smorfia mentre la gola dolente le si contraeva più e più volte, e le lacrime le sgorgavano dagli occhi e le colavano lungo le guance con tale rapidità che non riusciva neppure ad asciugarsele. Nel tentativo di dominarsi accese un'altra sigaretta, ma le diede la nausea e dovette correre in bagno e restarci un bel po'. Scossa da conati di vomito anche dopo aver rigettato quel poco che era riuscita a mangiare per colazione. Dopodiché tornò a sciacquarsi il viso e si lavò i denti e poi fu ora di darsi da fare. Non era stato falso né disonesto da parte sua rispondergli di no quando lui le aveva chiesto se lo odiava. Come non era stato falso e disonesto avergli preparato una ricca colazione e dimostrato profondo interesse per il suo lavoro e averlo salutato con un bacio. Il bacio, del resto, era stato assolutamente sincero. L'unico vero errore, l'unica cosa falsa e disonesta, era stata semmai quella di aver scambiato Frank per qualcosa di molto più importante. E tutto perché in un momento di solitudine sentimentale tanto tempo fa aveva trovato facile e piacevole credere a tutto ciò che a quel particolare ragazzo saltava in testa di dire e ripagarlo di quel piacere dicendo a sua volta cose facili, piacevoli bugie finché ciascuno aveva finito per dire soltanto ciò che l'altro desiderava sentire. Alle 2 del pomeriggio di quello stesso giorno, Millie Campbell, l'amica vicina di casa, aveva appena terminato di sbrigare le faccende domestiche quando sentì un suono di emergenza, l'acuto stridulo ronzio prodotto da una sirena d'automobile. Millie balzò alla finestra appena al tempo per scorgerla. L'ambulanza era davanti alla casa dei Wheeler. Ritto alla finestra a guardare fuori e a massaggiarsi lentamente la nuca, Shep Campbell era smarrito in confuse fantasticherie. L'aveva rivista una volta soltanto, ieri quando April l'aveva accompagnato da loro i bambini, poi il silenzio. E poi fu in linea con l'ospedale e si districò rapidamente nella confusione del centralino, liquidando bruscamente le voci che non potevano essergli d'aiuto e assumendo il giusto tono di rapida, autorevole indagine con quelle che invece gli erano utili. Shep corse immediatamente all'ospedale e mentre superava di corsa, una dopo l'altra, le porte furscianti con l'indicazione «ingresso visitatori», vide Frank che sostava confuso e balbettante al banco delle informazioni. Frank, ti hanno detto cosa è accaduto? Oddio, Shep, non ho capito metà delle cose che mi hanno detto. Insomma, hanno detto che il feto era già uscito prima che arrivassero qui e poi che hanno dovuto operarla per estrarre la... come si chiama? La placenta. Solo che continua a sanguinare, insomma... Hanno detto che ha perso tanto sangue prima che arrivasse l'ambulanza e sai, ora tentano di fermarlo. Hanno detto un sacco di cose che non ho capito sui capillari e poi hanno detto che è priva di coscienza. Frank, perché non ti sei? Perché diavolo? La mente di Shep misericordiosamente s'annebbiò, come gli era sempre accaduto prima o poi in combattimento. Vado a prenderti un caffè. Una vaga, protettiva voce interiore gli diceva: non sta succedendo davvero, non crederci. Shep sbirciò a disagio una porta chiusa, sopra la quale brillava una luce rossa, e Frank si lanciò in quella direzione. L'infermiera gli si parò dinanzi, pronta a fermarlo con la forza, se necessario, ma Shep l'afferrò per un braccio e lo trattenne. Un momento dopo uscì un uomo magro, dall'aria impacciata, con indosso un camice da chirurgo tutto stropicciato. prese sotto braccio Frank, tirandolo in disparte per parlargli a quattro occhi. Shep, tenendosi a rispettosa distanza, lasciò che la vocina interiore gli assicurasse che April non poteva assolutamente essere in punto di morte. Shep capì che cosa era successo non appena ebbe imboccato il lungo corridoio in fondo al quale si apriva la porta con la luce rossa. Si trovava a una cinquantina di metri quando vide aprirsi l'uscio e un gruppetto di infermiere uscirne alla spicciolata e precipitarsi con aria efficiente in tutte le direzioni. Dietro di loro uscirono a passo lento non uno, ma tre o quattro medici, due dei quali sorreggevano Frank come corretti, solleciti camerieri che aiutano un ubriaco a uscire da un locale. Shep spiccò una corsa e si trovò in mezzo ai medici, conscio della loro presenza soltanto come una massa di camici bianche e di facce rosee che andavano su e giù e di voci discordanti. Uno shock terribile, naturalmente. Sono cose che capita. L'emorragia era troppo violenta. Succede spesso, purtroppo. Tentavano di far sedere Frank in una delle poltroncine di Vimini, ma lui continuava a starsene testardamente in piedi, zitto e inespressivo, ansimando la testa che gli sobbalzava lievemente a ogni respiro, lo sguardo fisso nel vuoto. April aveva fatto tutto per benino, salvo una traccia nerissima di gocce che andavano dal bagno al telefono e viceversa. Tutto il sangue era stato versato nel bagno e anche qui era stato quasi completamente sciacquato. Due pesanti asciugamani, zuppi di rosso, erano ammucchiati nella vasca, accanto allo scarico. Sul ripiano inferiore dell'armadio trovò la siringa nella pentola d'acqua fredda. Con tutta probabilità l'aveva nascosta lì per sottrarla alla vista del personale dell'autoambulanza. Il complesso residenziale di Revolutionary Hill non era stato progettato in funzione di una tragedia. Anche di notte, come di proposito, le sue costruzioni non presentavano ombre confuse né sagome spettrali. Era invincibilmente allegro. Un paese dei balocchi composto di casette bianche e color pastello, le cui ampie finestre prive di tende occhieggiavano miti in un intrico di foglie verdi e gialle. Fasci di luce sfacciata spazzavano i prati, le eleganti porte d'ingresso e le curve delle automobili color panna ormeggiate dinanzi. Testo tratto da Revolutionary Road di Richard Yates, edizioni Minimum Fax. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin.